Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi vi presento un libro a cavallo tra la Turchia e l'Italia, tra il quasi copione cinematografico, il romanzo e l'autobiografia, ed è quello di un famoso regista turco-italiano, Ferjan Özbetek, che si intitola Rosso Istanbul, è pubblicato da Mondadori, 112 pagine, 16,50 €. Il regista torna nella sua affascinante città d'origine, torna a casa per salutare l'anziana mamma che non ha perso la sua vitalità e la propria voglia di vivere, e anche con lei l'antica casa di famiglia che sarà presto abbattuta. Accanto a questo suo tuffo nelle origini, nel passato e nella giovinezza, scorre un altro film, possiamo dire, quello di due coppie di amici italiani che si trovano a Istanbul per una vacanza che sarà presto drammaticamente sconvolta e che cambierà la vita di Anna, la cui storia si incrocia alla fine con quella dello scrittore. Ma sentiamo il regista. Buonasera, Ferjan Özbetek. Ferjan Özbetek, nello scrivere questo libro lei si è sentito più turco o più italiano? Glielo chiedo perché lei stesso confessa in una delle ultime pagine del libro che molti le fanno questa domanda. Se avere due patrie, cito dal libro, non la faccia sentire disorientato. Ecco, lei come risponde? No, non mi sento disorientato perché appartengo a due paesi meravigliosi, quindi sono un uomo molto fortunato. Cioè, ci sono, ovviamente, dicendo così, poi uno dice ci sono tanti disastri, tante cose che non vanno, la politica, le cose, però poi sono due paesi che mi hanno dato molto, mi stanno dando molto sempre. Io a 17 anni stavo a Roma e oggi ce n'ho 54, insomma, diciamo lo sviluppo, la cultura, le cose, tantissime cose ho avuto dall'Italia, ovvio, ma anche l'infanzia è molto importante, quindi mi sento sempre uno straniero ovunque, ma anche mi sento molto in certi momenti italiano, in certi momenti turco, ma insomma alla fine non ha così fondamentale sentirsi di che nazionalità, ma divertirsi, emozionarsi, scrivere un libro, questo è. Ecco, a proposito delle emozioni, nel capitolo intitolato Il glicine viola, lei parla dell'amore e a un certo punto lo definisce come una scia bruciante anche se lascia una cicatrice. Ecco, questa concezione dell'amore, che può essere anche dolorosa, fastidiosa, quanto crede che sia condivisa? Ma condivisa non so quanto sia, però sono delle cose che sono capitate nella mia vita, nel senso che sono stati degli amori molto forti, molto, mi hanno segnato molto, rimangono sempre poi quelle cose lì che non ti stacchi più, nel senso che ci sono, ovviamente la cosa ideale è l'amore che non ti dà dolore, l'amore che ti dà serenità, quella è la cosa più importante, però poi ci sono degli amori che, anzi quelli che forse rimangono di più sono quelli più sofferti. Poi l'altra grande sua passione naturalmente è il cinema. Qui a questo proposito lei parla di struggimento e di leggerezza, e questo è l'atteggiamento col quale lei affronta il suo rapporto con il cinematografo. Io con il cinema è la mia vita, quindi io qualsiasi cosa faccio, in qualsiasi modo sempre c'è il cinema. Cioè io vado in vacanza, dico adesso stacco tutto, vado una settimana, il mare, il sole, le cose, ma non è così, perché poi appena sono sull'aereo già comincio a pensare, dico ma se io facessi una storia così, così, se fosse questo così, ma lei risponde in quello, è tutto così, cioè fa parte di me in qualche modo. Adesso è uscita fuori questa cosa della scrittura del libro, fino adesso con le sceneggiature, erano le sceneggiature che poi si sviluppavano, finivano in un film, oppure rimangono in cassetta, ma scrivere il libro invece è ancora più intimo, ancora più bello. Io l'idea di partenza è stata questa cosa di mia madre, l'innamoramento di mia madre a 83 anni di un fisioterapista di 27 e raccontarmi tutte le sue avventure, nel senso che dicendo questo ragazzo stupendo, le cose, il fatto di cambiare verso la vita. Mia madre si vestiva sempre di beige, di tonalità blu, così, e mi chiedeva al telefono, senti, quando torni in vacanza o stai per venire, magari qui mi prendi quella cosa con tre righe, quella tuta rossa, voleva dire Adidas, non so, aveva tutte le richieste sui rossi, sulle cose, infatti Rosso Istanbul viene anche un po' da quello, nel senso che mi dicevo quello smalto, color rosso forte, insomma era tutto. E da lì che l'idea, ho detto ma questa cosa devo mettere in un film. Dal film poi invece siamo passati a un romanzo, grazie anche a Nicoletta Lazzari della Mondadori che mi chiedeva di scrivere un romanzo parlando, io ho detto, dico guarda io ho questa idea, lei ha detto fantastico, andiamo su quello. Ecco, nel suo romanzo ci sono due storie che corrono in parallelo e quasi in contrappunto, c'è poi la storia di Anna e Michele, che cosa rappresentano questi personaggi e la vicenda che li coinvolge fino alla conclusione finale? Ivan Cotroneo nella presentazione del libro lì da Feltrinelli ha detto una cosa molto giusta secondo me, insieme a Gianni Romoli che stava anche tra il pubblico così, cioè fanno parte comunque di me quel tipo di personaggi lì, cioè sono in qualche modo sono le mie alter ego, sono molto vicine a me e io non volevo raccontare direttamente una biografia ma mischiare con le cose come faccio anche nella vita nei miei film che dico nella vita nei miei film che si mischia la vita la morte non si capiscono bene tutte le cose questa è una cosa che mi piaceva anche raccontare nel romanzo. Comunque sono molto felice del romanzo che sta andando molto forte, quello mi fa molto piacere. È un romanzo nel quale c'è anche un accenno alla cronaca importante perché si parla delle manifestazioni di Istanbul, dei ragazzi e del mito di Ataturk che sta crescendo presso i giovani che appunto vogliono difendere la laicità, la democrazia dello Stato. Che impressione si è fatto lei del suo paese d'origine? Sono due cose diverse però, quelle di Ataturk perché sono varie fazioni che fanno riferimenti così. No, la cosa più importante è tra i miei due paesi, tra l'Italia e la Turchia, ho visto una differenza mentre i giovani turchi hanno detto no a alcune cose, hanno cominciato a protestare, hanno detto questo non si fa, questo, cioè hanno avuto una coscienza molto forte. Poi non si sa dove arriverà tutto questo, non si sa se riusciranno a cambiare le cose, però e poi in quei momenti là in Italia noi non siamo mai, non reagiamo mai, non è che dico uno che deve reagire con la violenza, ma deve reagire in un modo concreto, nel senso che in Turchia poi hanno cominciato a vietare assolutamente nessun tipo di manifestazione, è apparso un signore che si è messo fermo davanti sulla piazza a guardare un edificio che rappresentava un po' tutto queste proteste e era imbarazzante questa cosa perché lui non si muoveva, non stava lì fermo a fissare questo edificio così e si sono avvicinate mano a mano altre persone fermi, la polizia non poteva dire niente perché cosa dice uno fermo, cosa gli puoi dire? Anzi l'hanno preso, l'hanno portato per interrogarlo, poi hanno dovuto lasciare perché lui non aveva fatto niente, era soltanto fermo lì così, però è andato su tutti i giornali, su tutte le medie del mondo questa notizia, è stata anche una cosa molto creativa di design, di cose, cioè è stato veramente un vero movimento bello di non violenza, cioè loro hanno offerto i fiori ai poliziotti che magari stavano lì a cercare di spruzzavano questa cosa del peperoncino, insomma è stato un momento secondo me molto molto importante. Allora il mio libro si chiamava già Rosso Istanbul, a un certo punto in quei giorni là ho cominciato a incontrare pure altri rossi, nel senso che la prima protesta è stata fatta da questa signora vestita con questo vestito rosso, questa ragazza che è stato il simbolo di questa cosa, io ho detto guarda te il destino, faccio un romanzo con Rosso Istanbul, racconto tutti i rossi di Istanbul, si aggiunge pure lei. Allora abbiamo cominciato a pensare bene, insomma, su questo. Grazie a Fejan Özbetek, autore di Rosso Istanbul. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Un'altra prova narrativa italiana, anch'essa con un taglio quasi cinematografico, è Argento Vivo di Marco Valvaldi, un chimico convertitosi con successo alla narrativa. Il libro è pubblicato da Sellerio, 276 pagine, 14 euro. Qui il protagonista è uno scrittore affermato che attraversa un periodo nel quale ha corto di ispirazione, al quale viene rubato il computer col testo dell'ultimo romanzo che faticosamente ha messo insieme. Giacomo, questo è il nome dello scrittore, non ha avuto l'accortezza di salvare guardare in altro modo il testo, e quindi naturalmente la perdita del computer lo getta nella crisi più nera. Ma da qui nasce anche una serie di equivoci e colpi di scena tra malavitosi di provincia, nerd svogliati, poliziotti ambiziose e questori prudenti. Un giallo senza il morto, ma ugualmente appassionante e divertente, in più con un bello spaccato di vita italiano. E Marco Malvaldi sarà uno degli ospiti, uno dei numerosissimi ospiti della 12ª edizione Più Libri Più Liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria che si svolge a Roma al Palazzo dei Congressi a partire dal 5 dicembre fino all'8 dicembre. Ed è in corso una sorta di anteprima diffusa nella città, finirà il 4 dicembre l'edizione che si intitola Più Libri Più Luoghi, che prevede 160 eventi coinvolgendo 50 librerie e decine di spazi cittadini. Sono previste anche delle passeggiate letterarie, per esempio quella Trastevere di Trilussa o quella in via Merulana con Gadda. In tutto la fiera organizza 380 eventi con un'attenzione al pubblico naturalmente, ma anche ai professionisti che quest'anno discuteranno del loro mercato e in particolare delle politiche di prezzo e dei nuovi modelli di business. E per rimanere a Roma vi segnalo una insolita guida di Rosa Mordenti, Viola Mordenti, Lorenzo Sansonetti e Giuliano Santoro che si intitola Guida alla Roma ribelle. È pubblicato da Voland, 380 pagine, 16 euro, e ci offre un approccio molto particolare. Nella stessa serie ci sono anche la Parigi e la Barcellona ribelli, scritta da quattro autori che la ribellione la studiano e quando capita e se serve la praticano pure. E quindi divise nei vari rioni e quartieri della città troviamo luoghi e testimonianze di gesti e atteggiamenti di rottura, per esempio quello di Martin Lutero, di Caravaggio o di scrittori e scrittrici come il Morante. Troviamo i luoghi di partenza delle manifestazioni, la strada di Mario Moricelli, le ultime case occupate e naturalmente non soltanto luoghi, dicevo, ma anche personaggi e testimonianze dalla Roma antica a oggi che ci danno un quadro più tormentato della tradizionale immagine della Roma sorniona, come la definisce nella prefazione Alessandro Portelli, cioè una città che ha visto tutto ed è capace di vedere tutto senza scomporsi. In realtà basta fermarsi un attimo, aggiunge Portelli, ed ecco che vengono fuori le tensioni, i conflitti di una città drammaticamente divisa e per questo viva e affascinante. Ultimi arrivi. Vi segnalo oggi tre novità di altrettanti personaggi molto popolari. Il primo è Gigi Proietti, che ha scritto Tutto sommato qualcosa mi ricordo, è pubblicato da Rizzoli, 248 pagine, 19,50 euro. A rinfrescarsi la memoria, scrive l'autore, è una vera macchina del tempo. E allora Proietti, motivato da una sganassone ricevuto dal suo vecchio parroco, ripercorre la propria vita dandoci un quadro gustoso di Roma e dell'ambiente dello spettacolo nel quale l'attore si afferma, come ci racconta lui stesso, abbandonando il fare altero, come scrive, di attore del teatro d'avanguardia nel quale aveva mosso i primi passi. Alterniamo con un'attrice, Anna Marchesini, che da pochi giorni ha compiuto un compleanno rotondo e ha scritto Moscerine, è pubblicato da Rizzoli, 252 pagine, 17 euro. Questi sono nove racconti di stampo umoristico nei quali un elemento improvviso irrompe per turbare radicalmente un dei tranquilli tran tran. E infine Giovanni, il compagno di Aldo e Giacomo, che con Franz Rossi scrive in una veste insolita, quello di runner. Il loro libro si intitola infatti Corro perché mia mamma mi picchia, è pubblicato da Mondadori, 190 pagine, 16,50 euro, e gli autori raccontano qui della comune passione per la corsa con alcuni intermezzi che parlano di aspetti tecnici, sempre trattati con una buona dose di leggerezza e di umorismo. E quindi abbiamo un libro scritto da runner per runner che si ritroverà in molte delle avventure narrate, magari semplicemente nella descrizione delle corse alla montagnetta di San Siro a Milano. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di due date fatidiche che hanno cambiato veramente il corso della storia e che danno il titolo ad altrettante opere di due importanti scrittori, il primo un grande divulgatore americano, il secondo una storica. Il primo libro si intitola 1493, Pomodori, tabacco e batteri, come Colombo ha creato il mondo in cui viviamo. L'autore Charles Mann, che è uno scrittore e giornalista, è pubblicato da Mondadori, 676 pagine, 30 euro, tradotto da Carla Lazzari. 1493, dunque l'anno successivo alla scoperta dell'America, l'anno nel quale cominciano a manifestarsi le conseguenze di quella della scoperta e l'anno del trionfale ritorno, un trionfo che durerà poco, di Colombo, dopo il quale tutto cambiò, come scrive l'autore, soprattutto cambiò dal punto di vista degli scambi. Dopo il 1492, spiega infatti Mann, gli ecosistemi del nostro pianeta entrarono in collisione e si mescolarono a mano che gli europei trasportarono migliaia di specie nelle loro nuove case d'oltreoceano. Lo scambio colombiano è la ragione per cui ci sono i pomodori in Italia, le arance negli Stati Uniti, il cioccolato in Svizzera e i peperoncini piccanti in Thailandia. Per gli ecologi questo fu probabilmente l'evento più importante dopo l'estinzione dei dinosauri. Come capite, quindi, il libro si incentra soprattutto sulle conseguenze degli scambi che si aprirono. Infatti si parla delle nuove rotte tra Atlantico e Pacifico e soprattutto dei prodotti che passavano su queste rotte, dei nuovi commerci che si aprirono nell'area del Pacifico e delle conseguenze che questo ebbe sulle due successive rivoluzioni che contribuirono a cambiare la storia dell'umanità, cioè la rivoluzione agricola e la rivoluzione industriale, fino a parlare dello scambio che ebbe forse le conseguenze più drammatiche, ossia la tratta degli schiavi. Naturalmente fu uno scambio in due direzioni, non soltanto l'Europa ricevette tante piante dal Nuovo Mondo, ma anche noi abbiamo dato qualche cosa al Nuovo Mondo. Sentite per esempio che impatto ebbe sull'America l'arrivo delle api europee. All'inizio del 1622 approdò a Jamestown una nave carica di cose esotiche, viti, bachi da seta e api. Le viti e i bachi non ebbero una grande diffusione, ma le api si moltiplicarono a dismisura. La maggior parte delle api impollinano solo poche specie di piante e sono esigenti nella scelta del luogo dove stabilirsi. Ma quelle europee sono bestioline promiscue che impollinano quasi tutto ciò che capita loro a tiro e si stabiliscono quasi ovunque. In poco tempo si sparsero in tutte le Americhe. Gli indigeni le chiamavano le mosche inglesi. Gli inglesi avevano importato le api per il miele, non per favorire le colture. Il sistema dell'impollinazione fu scoperto soltanto verso la metà del XVIII secolo, ma ciò non impedì alle api di fecondare con il polline campi e frutteti. Senza il loro contributo, molte delle piante che gli europei avevano portato con sé oltre oceano non avrebbero proliferato. L'ape fu così fondamentale per il successo degli europei che gli indiani finirono per considerarla il presagio dell'invasione. La comparsa di un'ape in un nuovo territorio, osservava nel 1782 uno scrittore franco-americano, gettava tutti nella tristezza e nello sconforto. Apro qui una parentesi per parlare di un libro di narrativa ambientato nella Roma di pochi anni dopo l'inizio del Cinquecento, dove ci porta Patrizia De Bic van der Noot con un giallo che lancia un nuovo investigatore, il luogotenente Julius von Herrnstein, ufficiale della Guardia Svizzera, che indaga su una fosca serie di delitti nel libro Le Sentinelle del Papa, è pubblicato da Todor Editore, 252 pagine, 16 euro. Siamo dunque a Roma nel 1506, all'epoca di Giulio II, viene ucciso all'inizio del libro con un rituale che ricorda quasi l'avvio del Codice da Vinci il vescovo Burcardo, che ancora oggi dà il nome a uno dei più bei palazzi e cortili rinascimentali della capitale. Di là si avvia una serie di delitti che porta rapidamente a una setta segreta che si distingue per l'organizzazione di messe nere. Domina la scena il luogotenente, è tanto intelligente, ragionatore, dotato di memoria prodigiosa, che ben presto lo fa entrare nelle grazie di Giulio II. Chiudiamo la parentesi e passiamo all'altra data fatidica, una data di cui si parlerà molto nei prossimi mesi perché ci avviamo a celebrare il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, quindi il 1914, una storica canadese e adesso direttore di uno dei più prestigiosi collegi di Oxford, Margaret Macmillan, ha scritto appunto il libro 1914, come la luce si spense sul mondo di ieri, pubblicato da Rizzoli, 782 pagine, 28 euro, ed è tradotto da Francesco Peri. Questo non è un libro sulla guerra, ma sulle condizioni delle grandi potenze alla vigilia del suo inizio e sulle cause che contribuirono a farla esplodere. Molto influì, scrive l'autrice, la ristrettezza di vedute delle elite dominanti che si erano formate in un mondo di 20-30 anni prima, scrive infatti l'autrice, che i leader europei temevano per il futuro delle loro società di appartenenza, l'industrializzazione, la rivoluzione scientifica e tecnologica, l'influenza di nuovi concetti e nuove mentalità. Questi altri fattori stavano sovvertendo gli assetti sociali in tutta Europa, mettendo in dubbio pratiche e valori consacrati dalla tradizione e dall'abitudine. L'Europa era una regione potente ma anche profondamente tormentata. Tra questi valori che venivano messi in soffitta, aggiungo adesso io, c'era per esempio il senso dell'onore, che fu un elemento dirompente, spiega la Macmillan, per capire quali siano state le motivazioni anche psicologiche che hanno trascinato un'intera classe dirigente di tutto il continente, possiamo dirlo, al suicidio. Ci furono anche elementi economici che contribuirono a spiegare la crisi, per esempio, proprio per riprendere gli elementi di cui parlavamo nel libro precedente 1493, l'apertura degli scambi commerciali che aveva favorito l'importazione di prodotti agricoli dal Nuovo Mondo, mettendo in crisi i produttori europei e quindi contribuendo a impoverire complessivamente tutta la società. Insomma, quella dell'élite fu una battaglia di retroguardia ancorata a valori superati che provocò questa carneficina che appunto ricorderemo nei mesi prossimi, in un'epoca nella quale si affermava una sorta di darwinismo sociale che faceva della politica, scrive l'autrice, un continuo sgomitare e spintonare alla ricerca di vantaggi e privilegi, una spinta inesorabile che mise ai margini chi si batteva per la pace, che pure non mancava, e cercava di dimostrare quanto sarebbe stato devastante la guerra anche dal punto di vista economico. Un libro che richiama quel clima che provocò il crollo dell'Europa è quello di uno storico scozzese che oggi insegna a Stanford, Niall Ferguson. Il libro si intitola Il grande declino, come crollano le istituzioni e muoiono le economie, pubblicato da Mondadori, 134 pagine, 17 euro. Viviamo in un'epoca di crisi e di ristagno in cui è finita l'illusione del trionfo definitivo della democrazia liberale che si era affacciato sul mondo dopo la caduta del muro di Berlino. Siamo in un periodo appunto buio nel quale sentiamo soprattutto l'esigenza un po' in tutto il mondo occidentale di ridurre il debito pubblico, e questa è una situazione che secondo Ferguson si può risolvere soltanto in tre modi: o non onorando il debito pubblico che i tantissimi paesi stanno facendo aumentare in questi anni, fare in modo che si sviluppi di nuovo l'economia in modo da avere le risorse per pagare questo debito, oppure, terzo sistema, ricorrere all'inflazione e alla svalutazione. Non a caso si torna a parlare della necessità di aumentare l'inflazione in questo periodo. Ma Ferguson non è convinto che questa sia la via d'uscita, perché a questa situazione stazionaria dominata da una mano pubblica oppressiva e invadente occorre rispondere mettendo mano a quelle che sono le quattro scatole nere, come le chiama, della società contemporanea, cioè la democrazia, il capitalismo, il governo della legge e la società civile. Questi sono gli ambiti nei quali dobbiamo operare per ricostituire nuove istituzioni, e quindi questo libro, che raccoglie una serie di conferenze tutt'altro che per iniziati, rappresenta quasi un manifesto politico con proposte spesso decisamente coraggiose, come la privatizzazione delle scuole. E il libro si conclude con una citazione scelta polemicamente del presidente Obama, che diventa, nelle parole di Ferguson, il mandarino capo che si rivolge a sudditi nelle lontane province, rinunciando, aggiunge, a qualsiasi progetto futuro paragonabile a quelli che lo stesso Ferguson ha citato nel suo libro. Insomma, una visione, questa di Obama, tutta contraria a quella dell'autore, che così egli stesso riassume. Noi esseri umani viviamo all'interno di una rete complessa di istituzioni. C'è il governo, c'è il mercato, c'è la legge e poi c'è la società civile. Una volta, sono tentato di porre come data d'inizio l'illuminismo scozzese, questa rete funzionava straordinariamente bene e ogni serie di istituzioni completava e rinforzava tutte le altre. È stata questa, io credo, la chiave del successo dell'Occidente nel XVIII, XIX e XX secolo. Ma in questo nostro tempo le istituzioni si sono disarticolate. La nostra sfida per i prossimi anni è ripristinarle, invertire il grande declino e riportare le istituzioni ai principi primi della società veramente libera, di cui ho tentato di dimostrare il valore anche con l'aiuto di alcuni dei grandi pensatori del passato. E a questo punto... il confettino. Oggi apriamo la prima finestrella del calendario dell'Avvento e allora, grandi e piccini, ne segnalo uno molto particolare, frutto di una popolare scrittrice, Antonia Slan. Il libro si intitola semplicemente Il calendario dell'Avvento, è pubblicato da PM Voci, 150 pagine, 15 euro. E vi troviamo 25 piccole storie, una per ogni giornata che ci separa dal Natale, di origine sia italiana che orientale, che possono dare un senso diverso alla nostra attesa. E con questo ringrazio Guido Scotti e redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.